No, facciamo un attimo un punto del perché siamo qua e perché siamo seduti sul palco di Exalge con dei microfoni in mano, davanti a un sacco di amici stupendi. Grazie. Non capita tutti i giorni, ma sempre più spesso verso Natale, comunque. Verso Sì. Natale vuol dire perdiamo un po' la Il nostra. nostro aplomb concessionario, iniziamo a prendere i microfoni. Ci Sì, decidiamo che è il momento di parlare. viene voglia di mettere le hashtag. No, dai. Cosa ti è saltato in mente? Un mesetto fa stavamo organizzando il calendario di dicembre. Ah sì, abbiamo detto, ma visto che sospese sulle nostre teste ci sono delle tavole di legno e che rischiano di essere occupate al 100% da vasi di terracotta, c'è una competizione evidente con un altro tipo di possibile occupazione che sono pupazzi oppure libri, pensavamo un po' di parlare di scrittura, di letteratura, senza in questi termini impegnativi, ma di dire al mondo che vogliamo essere anche una libreria, una biblioteca. Sì, dai, io farei un passo indietro. Adesso stiamo lavorando al bilancio sociale di Exalge, no? E quindi stiamo un po' riguardando documenti, scritti, cose del passato. E, nel 2019 c'è questo manifesto programmatico in cui tra le varie cose che ci ripromettavamo di fare. Avevamo scritto una biblioteca sociale, insomma, dare spazio al libro, questo oggetto forse oggi Stuprato. stuprato, dimenticato dai più. Comunque, biblioteca sociale. E mi ha fatto specie che l'ho riletto proprio l'altro giorno e da qualche mese noi stiamo lavorando su questa cosa perché Jasmine Brunelli, che stasera non può essere qui con noi, Ma forse arriva ma forse arriva. Lorenzo Novarese. Lorenzo Novarese. No, no, no, Jasmine arrivando da una biblioteca qui, senza sapere perché fosse arrivata qui e cosa volesse fare, ha portato un po', ha fatto riemergere questo desiderio che avevamo di dedicarci ai libri in qualche modo, no? Sì, assolutamente, anche perché siamo da sempre, nonostante cerchiamo di ignorarle con tutte le nostre forze, sommersi da altre forme di intrattenimento e di informazione, siamo sommersi da libri da sempre nella nostra vita e probabilmente lo saremo per sempre, cioè non scomparirà mai il libro in verità, Ok, penso. positivo Sì, questo. no, ma è anche una speranza al di là del... Tu dici siamo sommersi dai libri in che senso? Nel senso che dal giorno 1 di occupazione di questo luogo siamo stati circondati comunque da forme letterarie, da libri. Ovunque vai trovi dei libri e anche se stai fermo in un posto i libri arrivano da te in qualche modo. Infatti molti dei libri che abbiamo qua li abbiamo recuperati o ci sono stati appioppati, no? Come la Santità, di Padre Maron, Sì. Sì, non so, io non sento questa sommersione, no? No, però. è una sommersione piacevole, nel senso Sommersione. sono tanti, potrebbero anche essere di più, anzi, però ci sono, ecco, sono No, parte... no. Ah, comunque, il discorso che volevo fare è: Exalge si è, secondo me, sempre presa a cuore tante cause, no? Provando a portare avanti progetti diversi. Dal cibo all'editoria, alla radiofonia, alla musica, insomma, cerchiamo di svariare molto portando avanti cause che ci interessano, Ci piacciono ci anche. piacciono. Quella dei libri non è stata una cosa nuova, insomma, No. è qualcosa che, come appunto cercavo di sottolineare, fin dall'inizio della fondazione di questa associazione, era di interesse comune, ed è un qualcosa di secondo me interessante perché sommersi o non sommersi, comunque è un mezzo artistico mettere insieme delle parole per raccontare delle cose. No, a me piace stare sott'acqua, comunque era una cosa Sì. positiva la mia. E niente, quindi è successo che qualche mese fa questa cosa tornasse all'ordine del giorno tra queste mura. E Jasmine ha fatto un bellissimo lavoro di archivio di tutto quello che erano i libri usati che c'erano qui, eccetera, che speriamo magari di mettere online anche a breve, in qualche modo speriamo di mettere disponibile online per la consultazione. No, che metteremo online e poi aggiungeremo a queste mensole un sacco di altre belle mensole. Lorenzo si occuperà di tante presentazioni dei libri, quindi insomma questo era un po' anche fare un mercatino dei libri, coinvolgere persone per raccontare, uno, che nel 2025 uno dei progetti di questa associazione è quello di rimettere un po' il libro al centro delle nostre attività tramite presentazioni, tramite il progetto di biblioteca autogestita e via dicendo. Due, che c'è un altro progetto molto bello che va avanti ormai da 3-4 anni in Exalge di scrittura collettiva, un laboratorio che ha portato alla luce 5 numeri di questo editoriale scritti collettivamente secondo modalità secondo me molto interessanti. Li trovate qui, hanno dietro ognuno di, questo, di questi numeri ha dietro una non abbiamo esposto il numero 0 non abbiamo esposto il numero 0 in effetti, anche perché non esiste più o meno, ce n'è una copia, c'è una copia, va bene, esiste in digitale sul sito, quelli sul sito ci sono già per consultazione. E quindi mi hanno detto, cosa ti è venuto in mente? Facciamo un evento dedicato al libro, così che raccontiamo un po'. Raccontiamo un po' anche questo il progetto della biblioteca. Io sono molto appassionato al concetto della biblioteca, al di là di quello della libreria. Mi piace molto anche l'idea di una biblioteca condivisa, come un nostro caro socio ci aveva anche proposto qualche tempo fa, che è Il Nico. Che funziona una biblioteca condivisa. Ah, una sorta di biblioteca condivisa a cui mi piacerebbe partecipare con la biblioteca di Exalge. Ed è un bellissimo progetto, secondo me, perché praticamente rende la tua libreria disponibile a tutti. Quindi nel momento in cui c'è un catalogo online a cui tu puoi aggiungere tutti i libri che hai per renderli disponibili a tutti quelli che lo possono consultare. E a quel punto tu chiedi, sai chi è la persona che detiene quel libro, vai, glielo chiedi e te lo prendi in prestito o lo scambi. È un modo per accedere ai libri più o meno gratuitamente, oltre a eventuali spese di viaggio. Se un libro che ti interessa è a New York, sei fottuto. Però, tosta, sì. Però è una bella idea. Quindi una parte dei libri che abbiamo, che saranno più o meno probabilmente i libri che abbiamo più a cuore, per quanto riguarda tematiche, o saranno magari dei grandi classici, saranno probabilmente disponibili per consultazione, o in ogni caso anche tutti i libri che sono qua sono disponibili per consultazione in sede. Alcuni te li puoi anche portare a casa a consultarteli, se poi li riporti. Noi cosa abbiamo deciso di fare? Cioè, avevamo un sacco di libri usati, tanti, recuperati da... Da una casa. Una casa in particolare di una signora. Una casa in particolare. E poi un'altra casa. Due case in particolare. Vabbè, abbiamo recuperato un po' di libri usati. Però non vogliamo fare in Exalge un semplice mercatino di book crossing, si dice, o di robe che capitano. E infatti abbiamo scelto dei temi che ci interessano. Abbiamo anche scelto dei temi che ci interessano, sì. Quali sono questi temi? Che temi ci interessano? Proviamo a vedere se qualcuno azzecca. Qualcuno dica un argomento. Ma che ne sa? Musica. Le tipe. Non lo so, più che altro i temi che devono interessare anche a voi, nel senso che sapete che questo è uno spazio vissuto molto da... Cioè, non siamo tanto io e Joe. Io e Joe non leggiamo tanto. Lui legge Diabolik... Quindi, io dai, qualche libro ogni tanto tu, lo leggo. Tu leggi, no? Sono io che non leggo. Ma anche tu leggi. L'ultimo libro che hai letto? Ma sì, no? È che faccio il modesto, perché già c'ho un microfono in mano ed è... L'ultimo libro che ho letto è Fukuoka, che ci ho messo 3 anni più o meno a leggerlo. Bellissimo, leggetevelo. E, no, ma questo per dire che i temi che abbiamo scelto sono temi cari a Exalge, ma l'idea è fare una biblioteca, una libreria, quello che vuoi, ma comunque abbastanza tematica, no? Cioè, che sì, proponga, un po' in linea con i nostri accolga, scopi. Proponga, venda, non libri di tutti i tipi. Sì. Tornando qui al discorso iniziale, quindi che non è l'arte di cui la scrittura è una branca. Ma anche una branca, perché una branchia. È come fosse un pesce che respira, no? Devo leggere un po' di più. E non è fine a se stessa, quindi la scelta di alcuni temi è perché secondo noi ci sono dei temi molto, molto trasversali a quello che è il cambiamento urbano, moderno, che possano aiutare la cittadinanza o almeno i soci di Exalge a leggerlo, a criticarlo, a interpretarlo, quindi l'abitare. No, l'abitare va bene, scontato. Scontato. Cos'è l'abitare? Non iniziamo una riunione di turbe, non siamo ancora pronti. Cos'è no, però urbano? La botanica, l'antropologia, tu ce l'hai scritta. Oggi, tra l'altro, c'era un invito a portare... Se porti un libro di quelli lì... Puoi scambiarlo con... Invece... Non sono arrivati. No, ma così è troppo facile. Cioè, se gli altri non sono attenti... No. Va bene, quindi... Tutto questo per dire che... No, piano piano ci arriviamo. Antropologia, abbiamo detto. Pianissimo poi... ci arriviamo. Musica lo mettiamo anche tra virgolette, cioè nel senso, come fai a scrivere di musica? Difficile. Si può fare, c'è un bel libro sul jazz, grande così. È mio. Ah, vedi? Sparane uno tu. Di tema? Sì. Ma no, sono artigianato. Scritti. Artigianato. No, dai, sono 5-6 temi, le botanica, piante, abitare, musica, insomma, quello che poi è quello che accade qua. Grande festa. Cibo. Cibo, beh, cibo. Cos'è che è? Fascio littorio? Territorio. Ma sì, ma poi i temi sono trasversali. Abitare. A tutto, i temi sono trasversali, cioè sono nel senso delle chiavi di lettura. A me viene in mente, per esempio, oggi abbiamo qui con noi, e farei un applauso a Beatrice Citterio, che tramite la fotografia come arte principale, però porta avanti una critica sociale, un'analisi... Al territorio. Dovreste averlo imparato ormai. Chi parla tra il pubblico sale sul palco. Al territorio. Sul divano, sì. Loro... No, ma è qua l'ingresso, da questa parte. Qua c'è il tuo microfono. Ciao Bea, grazie di essere qui con noi a sclerare. Ciao. Che bello. Ciao. Come stai? Bene. Arrivo orora da Bolzano. Da Bolzano. Abiti lì? Abitavo e abiterò. A proposito di abitare, mi passi un... No, scusami se ti ho così a sorpresa citato e disturbato, però ho colto un po' al balzo il fatto che alla fine tu parti dalla fotografia, che è un altro ambito, e porti questa cosa all'interno di... cioè insieme alla scrittura per un fine che è critica o comunque analisi politica, sociale del presente. E quindi quando poi, come stavamo facendo, analizziamo diverse tematiche, ci accorgiamo che alla fine queste cose spesso e volentieri si mischiano e trovano un senso nel momento in cui qualcuno quel senso glielo dà, come hai fatto tu con Giochi Preziosi. Vuoi dirci qualcosa? Ha senso quello che ti sto... Questa succede? Se l'era studiata sul cesso comunque. Sì. Ha senso. Allora, in realtà io scrivo prima di far foto, cioè le foto le inizio a fare un annetto fa, perché prima non avevo banalmente anche una macchina foto, me l'ha prestata una mia amica per 6 mesi e poi me la sono tenuta per un po' di più. E, come ti piace scrivere di più? Penna su carta, carta su penna, fammi finire, la macchina o il computer? Praticamente poi quello che è successo è che ho iniziato a fare determinate foto per un progetto universitario e lì scrivevo le didascalie a queste fotografie in maniera molto personale, molto senza punteggiatura, molto di getto, molto così. Però ho sempre scritto cose per utilità, non tanto per mio hobby personale, però per università o eccetera. Mi sono sempre appassionata molto a scrivere cose molto pragmatiche, anche riflessioni, però molto tipo col fine di produrre qualcosa per università, eccetera. Poi quando ho iniziato a fare fotografia ho accostato un po' le due cose, si sono un po' fomentate a vicenda. Eccetera, per cosa sta esattamente? Al di là dell'università, dove scrivi? Scrivo per progetti cioè fuori dall'università, che siano associazioni, che siano biglietti d'auguri. Tematiche? Tematiche. L'università e questi progetti cosa ti portano a scrivere? Scrivo molto con la mia amica Susanna. Ci scriviamo dei messaggi lunghi 5 chilometri. E lì sono sempre messaggi senza punteggiatura, che è una cosa secondo me molto particolare. Però sì, poi Giochi Preziosi nasce dal fatto che essendo di Milano e avendo vissuto a Bolzano per ormai quasi 4 anni in maniera discontinua nell'ultimo anno, mi sono informata sui Giochi Invernali 2026, sulle Olimpiadi, e ovviamente tirando in mezzo sia Milano che le Dolomiti e altri territori che sono tipo quelli della Valtellina, Trento, eccetera, mi sembrava quasi logico parlarne, perché poi tutti i processi su cui agiscono le Olimpiadi e che accelerano le Olimpiadi, processi che esistono già ma che poi vengono amplificati, li subisco io sulla mia vita personale pure, e altri. Cioè altre. I messaggi consusi si allungano praticamente? No. Ma entrando un po' nella, diciamo, dinamica pratica di Giochi Preziosi, e secondo me è molto interessante, è un qualcosa che ti sei autoprodotta, nel senso senza nessun tipo di finanziamento, stampandotelo in proprio e pubblicizzandolo attraverso i tuoi canali di amicizie o social, insomma. Penso che sia una forma molto molto bella, quasi tra virgolette antica, di diffusione del sapere o comunque espansione di una critica. Cioè, come è nata questa cosa, o comunque come ti sei vissuta questo processo, mi piacerebbe capire, da un punto di vista appunto di farlo tutto un po' da sola, senza nessun tipo di editoria o aiuto. Cioè, un tuo interesse, un tema che ti interessa, e tu dici ok, io prendo adesso e faccio con i miei mezzi, con quello che ho, un prodotto e cerco di raccontare al mondo il mio punto di vista. Sì, allora, l'analisi sulle Olimpiadi nasce anche da tutta una ricerca su come le opere per le Olimpiadi, che sono tantissime e vanno molto oltre le infrastrutture per lo sport. La ricerca che io ho fatto è banalmente come queste opere agiscono sul territorio, come le popolazioni locali le subiscono e come la pianificazione territoriale dei territori considerati è affetta da questi tipi di trasformazioni. E quello che ho capito e che poi continuo a capire e di cui continuano a darmi la conferma le popolazioni locali quando ci interloquisco è la mancanza di comunicazione tra i poteri amministrativi, che in alcuni casi sono i comuni e le province, ma in alcuni altri casi sono proprio le regioni. Mancanza di comunicazione tra regioni, province, comuni, eccetera, e popolazioni locali. E questa mancanza di informazioni nasce anche dal fatto che, siccome le persone non si interessano ai processi che i propri territori subiscono, automaticamente le autorità, le istituzioni che comandano questi tipi di cambiamenti si sentono libere di poter fare quello che vogliono. E quindi qua esce fuori il fatto dell'informazione, cioè il fatto che io abbia prodotto un prodotto editoriale informativo su dei processi già avviati, purtroppo, però di cui secondo me vale la pena essere a conoscenza, nasce dalla necessità di che io ho individuato nella mia ricerca, che è quello di comunicare determinate cose. E secondo me la forma dell'editoriale tabloid in forma con la carta di giornale era anche un po' una critica al fatto che determinate notizie non circolano sulla comunicazione giornalistica, o comunque ci arrivano in termini molto complessi e molto frammentati, e chi non legge il giornale poi non ne ha conoscenza. Io, se sono residente di Milano, voglio essere a conoscenza di quello che succede nel mio territorio, soprattutto nel mio quartiere, anche se non leggo il giornale. Cioè vorrei avere una comunicazione personale, una scelta di quello che succede, mentre ovviamente non ce l'ho. Ovviamente. Ah, bellissimo. Vai. Tra l'altro penso che sia una forma oggi che quasi che va scomparendo, ma una volta molto più presente, avere dei giornalini indipendenti che raccontino i quartieri, le zone, gli spazi. E tra l'altro, così come adesso stiamo un po' ragionando in Exage sulla libreria, abbiamo ragionato negli anni e soprattutto in fase di costruzione di questo spazio, l'idea di un editoriale che, Nodi di Nodi, adesso è un editoriale molto artistico, astratto, sperimentale, però che era nata come idea, come un qualcosa che raccontasse quello che accade nello spazio e quello che accade nel quartiere. E poi speriamo che magari... Ci hanno sempre detto che all'interno degli archivi e delle consegne che abbiamo scelto potevamo parlare di quello che volevamo. Si può parlare sempre di quello che si vuole, però secondo me, rispetto a una volta, io mi ricordo al liceo scrivevamo un giornalino che raccontava l'occupazione, l'autogestione, però è una forma che sta un po' sparendo, un po' perché, come dicevi tu prima, oggi, o come dicevamo, insomma, con Instagram, con i social, hai la foto, la didascalia e finisce lì, e non c'è più questa forma su carta di racconto. E un po' perché forse è tutto talmente veloce e delocalizzato che un giornalino specifico che racconti di processi così particolari e lenti è molto complesso da fare, da finanziare da progettare. Quindi secondo me invece è molto bello che queste cose ancora accadano. E tra l'altro, se non ho capito male, è il primo numero di una serie? Ho letto qualcosa? Tecnicamente penso che sarà un semestrale. E vabbè, Giochi Preziosi non posso usarlo per sempre, se no mi denunciano. Però penso che sarà un format abbastanza simile, e ogni semestrale avrà una tematica particolare, non strettamente legata magari alle Olimpiadi, però avranno degli ambiti tematici trasversali alle Olimpiadi, insomma. E comunque, per autoprodursi un giornaletto, c'è un sito che si chiama Print Newspaper. Carichi il tuo PDF, puoi stampare da 50 a 5.000 copie, ovviamente diminuisce il prezzo all'aumentare del numero, e poi con una vendita a basso prezzo puoi rientrare facilmente nelle spese. Quindi questo è l'unico modo in cui sono riuscita a farlo, perché non ci sono stamperie che stampano su giornale sull'area lombarda. Avevo contattato vari giornali che hanno stamperie centralizzate per provare ad affittare il tempo di stampa dei loro, tipo Manifesto, Corriere, La Repubblica, eccetera. Ho scoperto che stampano tutti nella stessa stamperia e non puoi affittare le stamperie. Però in Svizzera, nel Canton Ticino, invece puoi. Però devi fare tirature da 500 più, e io ne ho fatte 200 per ora. Un po' più rischioso. Fermato del giornale perché è un metodo di comunicazione di informazioni molto comune, ed è, come dicevo prima, un po' una critica al fatto che sui giornali le notizie circolano in un modo un pochino criptico, comunque molto frammentato, sconclusionato, se non leggi sempre il giornale non sai mai di cosa stanno parlando, eccetera, comunque non hai mai una visione generale. E quindi da una parte questo, dall'altra è l'unico modo per poter distribuire tante copie rimanendo nei costi. Sì. E poi secondo me, qua faccio un po' una riflessione personale, secondo me il format del libro sta superando, cioè lo stop mentalmente superando. Cioè secondo me molti progetti adesso finiscono nei libri e non hanno nessun motivo per finire nei libri. Perché la produzione, sempre overproduzione di libri, ce ne sono una caterva, e forse bisognerebbe selezionare un po' meglio se effettivamente il tuo contenuto finisce in un libro, perché deve finire in un libro, o perché non hai o le competenze o la conoscenza di altri modi per pubblicare qualcosa, comunque per farlo raggiungere al pubblico. E oramai con tutti i metodi transmediali, digitali, anche stampati, ma che non siano strettamente libro con copertina rigida, ce ne sono tantissimi. E varrebbe la pena un po' esplorarli, perché secondo me poi il progetto diventa molto più tridimensionale. Però appunto a Sprint, che era la fiera dell'editoria indipendente che c'è stata un mesetto fa, c'era una ragazza che ha fatto un progetto includendo delle buste, delle carte piccole, dei tipi di involucri solitamente destinati alla spedizione, eccetera, però faceva tutto parte di un progetto, e banalmente era un modo molto più stimolante di conoscere qualcosa piuttosto che leggerti un libro. Come lo inseriresti, qualcosa di più tridimensionale e stimolante all'interno di una libreria? Nel senso, è vero che è tridimensionale e stimolante, ma se non è in esposizione difficilmente riesci, a rispetto di una copertina rigida con un titolo e un autore scritto sopra, a inserirlo. No, ma tu puoi esporre quello che vuoi, puoi anche esporre un progetto frammentato in vari modi, ovviamente ha bisogno di spazi diversi. Ha due destinazioni anche diverse. No. Te lo puoi comprare, te lo puoi leggere, ti puoi giocare, ci sono alcuni progetti editoriali che hanno all'interno dei giochi. Ci sono dei progetti editoriali che hanno all'interno dei liquidi, ci sono dei progetti editoriali che hanno all'interno del cibo. Sì, diciamo che un libro invece ha come destinazione quella di essere messo su una mensola o al massimo aperto su un tavolo. Ma infatti secondo me non è soltanto la crisi del libro, cioè il fatto personalmente anche il modo di ripensare spazi in cui fruisci di questi materiali. Magari non deve essere una biblioteca con i libri fissati su una mensola. Magari può essere, adesso stanno facendo tanti studi su neurologie legate all'utilizzo, l'accesso nelle librerie, come la gente si muove, si chiama neuromarketing, che è una scienza del cazzo, però effettivamente... Gli scaffali dei supermercati. Sì, però nelle librerie stanno studiando dei modi più immersivi, non a caso sono nate le librerie bar, le librerie shop, le librerie lavanderie. All'Elba, all'Isola d'Elba ci sono delle lavanderie che hanno di fianco negozi di vestiti con lavanderia annessa. Cioè sono tutte esperienze diverse che però ti fanno fruire il libro non tanto per comprartelo, per portartelo a casa, ma magari per legare o comunque per conoscere cose al di là della carta stampata. No, io... Niente da aggiungere. No, niente da aggiungere, no. CD? No, molto bello. Io appunto, come stavo dicendo prima... Penso che sia, e su questo hai appena detto tu in modo perfetto, forse un futuro dell'editoria di resistenza, dell'editoria di inchiesta dal basso, quello di formati sicuramente autoprodotti, ma comunque anche diversi da il libro classico per come lo conosciamo. Quindi secondo me questo può essere molto interessante anche per noi, come Exalge, da pensare all'interno di un progetto di libreria sociale, quello di come effettivamente poi esporre, non tramite delle mensole, lavori di questo tipo, come valorizzarli, perché abbiamo provato a farlo negli anni con degli spazi espositivi, eccetera, ma è molto complicato. Come riuscire a valorizzarli, come darle il loro, dare a questi prodotti il loro giusto spazio e la loro giusta visibilità all'interno di quattro mura. È una bella sfida, però penso che questo stia a noi, mentre a livello di prodotto io rimango super fan, super positivo su questo tipo di lavori. Poi chi lo sa. C'è una roba che secondo me è molto, cioè fa capire un po' meglio il meccanismo, è molte mostre sono transmediali, quindi hanno scritte, hanno foto, hanno video, hanno robe tattili, hanno robe partecipative, e poi vai nel bookshop e c'è il libro della mostra. Che cosa mi può dare effettivamente il libro della mostra? Cioè il libro sta riassumendo un'esperienza molto più vasta, molto più tridimensionale, che però nel libro non può trasparire, perché o l'hai vissuta, ti becchi il libro per ricordartelo, come se ti servisse il libro per ricordartelo, lo fanno solo magari per fare un po' di cachet, ci sta, però questo è un po' il punto, cioè molti progetti anche fotografici o video eccetera poi finiscono in dei libri che molto spesso hanno senso, però molte altre volte invece riducono molto il lavoro, e secondo me alcuni artisti stessi non se ne rendono troppo conto. Finito. Va bene, grazie Bea. Grazie mille. Prego. Comunque, giochi preziosi, se volete, si può comprare. Costa 8 euro. Costi di produzione 6,76 euro. Prezzo trasparente, signore e signori. Cosa vuoi fare? Vuoi dire due parole su Nodi di Nodi? Vuoi invitare così d'amblè un altro ospite? Diciamo due parole su... Vuoi filosofeggiare ancora su cos'è la scrittura per noi? Su Nodi di Nodi con un ospite. Filosofeggiando sulla scrittura. Dai, allora, per noi. Un qualcuno che ha scritto su Nodi di Nodi, che non porta oggi però niente di suo, lo chiamiamo? Sì. Vai, chiamalo tu. Edo. Vai. Ciao Edo. Non è vero. Ciao. Buonasera. Muschio selvaggio. Allora, gli chiediamo cosa ha fatto ciao. Oggi, quindi. C'è anche un tavolo sono triangolare. Ah, aspetta, come stai Edo? Come stai? Bene, grazie. Allora, tu cosa leggi sul chess? No, abbiamo già parlato ieri. Io guardo YouTube. Guardi YouTube costantemente. Non ti porti mai un manga? No, perché li tratto con i guanti. In bagno poi si rovinano. Giusto. Però non è vero che non leggi. Leggi un casino. Dipende, cioè non sono una persona molto incastrata, cioè sul libro. Hai una libreria? Sì, ma leggo cose. Cioè leggo cose su internet o... Oh, mi piacciono molto i fumetti, però non sono un gran lettore di libri. Cioè mi piace prettamente tipo la fantascienza, quindi leggo tanti di quei libri, ma poco altro. Beh. Quindi non sono proprio un ospite adattissimo in questo momento. Però hai anche scritto. Ho scritto, sì, una volta Hai scritto. Sì. No, ho scritto sull'ultimo editoriale di Exalge. In cui mi sono un po' infilato per noia, in realtà. 6 anni ci abbiamo messo a convincerti a scrivere su quelli. Sì, ma vogliamo raccontare come funziona questo editoriale di Exalge o no? Quale questo? Peggio. Gli ultimi quattro? Gli ultimi quattro, che non sono nodi numerati. Di nodi. Nodi di nodi. Ok, Nodi di nodi funziona come esercizio di scrittura collettiva. Quindi, in verità... Si sceglieva per ogni uscita un archivio, ovvero un insieme da cui attingere materiale, e su questo insieme si svolgevano una serie di esercizi che noi chiamavamo consegne, che variavano di numero ed erano scelte più o meno democraticamente da tutti i partecipanti alla prima riunione dell'uscita, quindi prima ci si trovava, si sceglieva da che archivio attingere, che tipo di esercizio fare. Poi ci si perdeva per 3, 6, 8, 9 mesi e a un certo punto ci si ritrovava dicendo: allora, abbiamo effettivamente scritto, prodotto qualcosa? E a quel punto iniziava tutto un altro processo di in che ordine li mettiamo, che formato scegliamo e la copertina di che colore è e il simbolo che rappresenta questa uscita qual è e perché un non un numero. Ma vogliamo fare una cosa adesso, Edo mi odierà, ma facciamo leggere a Edo il suo pezzo. Ti facciamo leggere il tuo pezzo. Ma perché poi secondo me è super rappresentativo di tutto quello va che bene, sta accadendo. Recuperi tu, recuperi parlo, sì, parlo di erezioni involontarie, cose. Un'erezione, no, com'è che era quella dei CCCP? Un'erezione triste. Se no, potevamo fargli leggere un pezzo di Harry, per dire. Potevamo, ma invece è andata così. E invece ti è andata bene. Mi sento tipo Baricco, non lo so. Allora, vedi, però i nomi degli scrittori li so. Lo vuoi un sottofondo di pianoforte? No, grazie. No, la cosa era che ci sta un'introduzione, però, che era... Cioè, a me è stato detto, immaginati di essere a un laboratorio di pasta fresca. Ah, lo spoiler così? Eh sì, perché sennò non si capisce un cazzo. Cioè, cioè la mandata è... e in generale parlare di quel che non si dice, di quel che non è detto. Queste erano le due. Cioè, la consegna dire, era sono... di qualcosa che non è mai stato detto. Esatto. Questa era la consegna. Questa era la consegna. Esatto. E... il lab di pasta fresca è un'altra consegna. È un'altra consegna ancora. Beh, io avevo messo tutto. Che com'è che era esattamente? Fai finta. Racconta che... l'ultima riunione di Nodi di Nodi come se stessi partecipando al laboratorio di pasta fresca. Per riunioni a cui non avevo partecipato. Quindi non l'hai fatto. No, l'ho fatto lo stesso. E quindi niente, avevo scritto questa cosa sulle cose non dette. Lo leggo. Provare a dire qualcosa che non è stato detto. Sto provando ad immaginarmi parole che non sono mai uscite da nessuna bocca nel corso della storia, che poi potrebbero anche essere state pensate, ma l'importante è che non siano mai state dette, nemmeno pronunciate. Dunque la voce che dà esistenza alle parole dette, figo. Che poi io cosa cazzo ne posso sapere se una parola non l'ha già detta qualcun altro? Tipo, che ne so, rivoltellosità. Magari la prima volta che viene detta ad alta voce, ma magari no. Dove sta la verità dunque? Nel nulla cosmico, nella leggerezza del buio oltre un muro, nel famoso rumore dell'albero che cade in mezzo alla foresta. Esiste se nessuno lo sente? Io penso di sì. Esattamente come mi piace immaginare che qualcuno abbia gridato al cielo rivoltellosità. Poi ci sono le cose che non ho mai detto io. Quelle parole intrise di paura, vergogna, timidezza. Ah, quante cose non dette. Se solo avessi avuto più stima di me stesso, più fiducia in questi due grandi occhi neri protetti da gargantuesche sopracciglia. Gargantuesco è una parola che prima di gargantua e pantagruel non esisteva. Le parole hanno un peso enorme. La sensazione è che quelle dette ad alta voce portino con sé una densità ancora maggiore. Infatti la densità non è altro che la massa fratto il volume. La massa delle parole e il volume del tono di voce. Avrei voluto dire tantissime cose di impulso, di getto, dando ascolto a quei movimenti intestinali che spostano le ansie e le preoccupazioni. Purtroppo però sono sempre rimaste lì in fondo alla gola. Non voglio dire che ora parlerò, no no. Voglio solo dirmi che alle volte trovare la forza di esprimersi, di dar voce alle proprie emozioni, è una cura per i propri mali. Una fuga dalla tristezza, un salto nel vuoto. Fletto i muscoli e sono nel vuoto. Ecco, questo forse non me l'ero mai detto. Metto il titolo del testo qui allora, perché ci sono arrivato solo terminato il mio delirio. Qualcosa che non mi ero mai detto. Mi fa sorridere che arrivato a questo punto mi ero già stufato di usare le parole. Scritte e non dette in questo caso. Impigrito su un morbido divano, risucchiato negli spazi tra i cuscini. Mi è stato fatto notare che ho scritto cose e che sarebbe bello saperne di più. Ho sempre saputo di dar per scontate le cose, di avere un filo chiaro e continuo nella mia testa che mi appare talmente complesso che mi passa la voglia di provare a snodarlo, estenderlo e quindi raccontarlo con ordine e senso. Sai cosa mi piacerebbe avere? Un proiettore che ti attacchi in fronte e riproduce sul muro questi tuoi pensieri, così da non doverti sforzare. Oggi è una giornata grigia, ieri non lo era. Forse è tutta una questione di fretta, la fretta che ci divora, l'ansia di avere tutto subito, subito tutto e subito. E quindi le parole non dette diventano occasioni sprecate, freccina rimorsi, freccina rimpianti, freccina tristezza. Se c'è una cosa che però non mi è chiara nel percorso della vita è che la fretta porta rovine. Città alla Kenshiro. Ci sono dei cibi che richiedono una cottura di ore ed ore, così per far diventare tutto morbido, da far unire sapori e colori. Let me cook, dicono i giovani. Nessun rimpianto, nessun rimorso, dicono gli ormai trentenni. Il tempo è la risposta a tutto, allora? Forse sì. Io non lo so. Bene, mi spiace. Mi sembra che il tempo sia ciò che manca alla formula della densità. Allora la riscrivo, ci tengo a sballare tutto, a moltiplicare le pere con le mele. La densità è uguale alla massa fratto volume per il tempo. Ciao, ho inserito il tempo nella formula. Allora sì che la densità delle parole prende forma, non bastano la massa e il volume, ma è il tempo che ne definisce il valore intrinseco. Il brillante è colui, colei, coloro che ha la risposta pronta, la parola adatta al momento giusto. Mi chiedo però se questa dote non sia controproducente alle volte, quando una risposta o semplicemente la scelta delle parole richieda tempo e riflessione. Non lo so, non so più nulla. So solo che questa cosa del tempo mi piace, cuocere a fuoco lento le parole e farle diventare morbide e saporite. Wow, bravo, grazie. Niente, questa era... mi sembrava una parroco. Liturgia. Mi ha colpito molto durante questa lettura l'immagine del proiettore che esplica i tuoi pensieri, perché è un punto che mi sono scritto da chiedere a tutti gli ospiti ed è un po' al contrario del vorrei leggere nel pensiero le persone, no? Come superpotere ideale che uno potrebbe chiederti, quale vuoi avere? È un po' il contrario, cioè la domanda sarebbe: quali sarebbero, se ci sono, le tue esigenze espressive da artista o da persona, da essere umano? Cioè, nella letteratura o nello scrivere anche soltanto, c'è un esercizio libero, c'è uno sfogo? Io sono mosso dalla pigrizia, quello è il problema. Quindi sono una persona che ha sempre avuto tanti impulsi creativi, ma poi non ha mai combinato un cazzo, quindi... E quindi in realtà provo un sacco di stima per le persone che sono qui stasera, cioè che appunto fanno libri, cose, e io ripeto, cioè veramente non... e questo è un po' il senso, cioè il fatto che quando mi metto a fare qualcosa di creativo vorrei avere veramente un proiettore che faccia vedere le cose che penso, e perché mi rompo il cazzo a farlo. Mi annoio, mi pesa, dopo poco mi stufo di quello che sto facendo. Quindi... potresti essere un ermetico allora. Infatti. Oh, non so. Mi illumino d'immenso. Sì, esatto. Montale era un pigro. Boh. Probabilmente. Ma non era Ungaretti, tra l'altro. Sì, no, ma anche Montale. Cioè, Limoni. Ma infatti non mi piaceva molto Montale. Vabbè. Grazie. Finito? Finito? Libero? Chiama gente, vuoi, che ha fatto davvero sì. cose. Che se io... vuoi, sì. Grazie. Complimenti. Grazie, Edo. Grazie mille a te. C'è un prossimo malcapitato? Subito così? Non c'è una scaletta, quindi è tutto molto a polso. No, cosa volevi presentare? Qualcos'altro? Vuoi parlare del primo editoriale? Che è il numero zero. Ah no, non c'è molto da dire. Il primo editoriale era mentre aprivamo l'associazione, eravamo un branco di parole, non si usano parolacce. Scappati di casa? Sì, dai. No, di giovani, ragazzi, ragazze volenterosi di fare. Abbiamo raccolto cosa? Materiale da parte materiale di... ci siamo detti, scegliamo un tema. No, non è vero. Sì. E poi non abbiamo scelto. Ci sono usciti quattro temi e alla fine ognuno ha scritto il cazzo che voleva. No, dai, infatti è il primo editoriale, è una gran raccolta di cose diverse. Pensieri. No, ma siccome ci sta all'inizio di un progetto, ognuno butta dentro un po' le sue cose. Non so, io non ho molto da parlare di quel numero. Tu, se vuoi dire qualcosa tu, però... No, ho fatto quello che dovevo dire. Dobbiamo dirlo. Ok, il primo numero editoriale, un gran casino, no? Cioè, non so. Sì, bellissimo. Sì, bello, bellissimo. Ve bellissimo. Lo consigliamo, abbiamo una copia sola, quindi correte. No, la copia sola non si può vendere così. Non si vende neanche. No, è in esposizione tridimensionale, pronta al tatto, imbustata. È disponibile online. È disponibile online. Buono. Se vuoi venire a toccacciarla, devi venire qua. No, non si usano i guanti in lattice sui libri. Giulione, però da te che sei un esperto bibliotecario non me l'aspettavo questo. Va okay. Bene. Allora, Emma, vuoi raccontarci qualcosa della bella estate? Sì, dai. Che bello. Magari c'è, però. Oddio. Prendilo pure, staccalo tanto. Pure. Parlare al microfono in realtà. No, ma questo è basso, ok. Ciao. Ciao, ciao. Buonasera. E, niente, noi siamo un collettivo artistico e in realtà ci occupiamo anche noi di territorio, abitare, almeno per il nostri prima trilogia. Poi adesso stiamo lavorando ad altri... Sono ancora in processo, quindi non so cosa ci occuperemo. E niente, la nostra prima trilogia è composta da 3 volumi. Il primo riguarda appunto, tutte e tre riguardano l'abitare e sono state fatte da 3 persone diverse che hanno preso questo tema e l'hanno interpretato nella loro chiave. Il primo volume l'ho fatto io ed è riguardo al quartiere in cui abito, che è zona Gallaratese, nord-ovest di Milano. Poi il secondo numero è di una mia collega che ha parlato dell'Accademia di Brera, di cosa significa abitare lo spazio dell'Accademia. E il terzo numero invece riguarda un'altra mia collega che invece vive fuori Milano, nell'Interland, e si chiama Ritorno alla Terra e riguarda appunto tutto ciò che... qual è il rapporto tra... il rapporto un po' di... che abbiamo perso con la campagna o comunque che lei sente ancora di non aver così perso in realtà perché vive molto ai margini della città e quindi appunto tutte queste cose. Per esempio a casa sua si vedono i pascoli ancora, queste cose qua. E niente. Sono questo. 3 racconti, diciamo? No, sono 3 libri fotografici con un po' di scritto. Nel mio più scritto in realtà che negli altri. Comunque c'è alla fine un paio di pagine in cui viene spiegato bene di cosa ci si riguarda, di cosa si parla. E niente, si occupano del tema dell'abitare perché ognuno di noi ha appunto pensato in chiave diversa a questa cosa. Una versione libera, una espressione libera, personale. Sì, abbiamo insomma. Scelto il tema e ognuno ha pensato a cosa significa abitare per se stessa. E nel mio caso, vabbè, ho parlato del mio quartiere, e che vabbè è una zona periferica di Milano, penso come tante altre, penso anche come Barona, banalmente, Grato Soglio, questi quartieri molto periferici, che appunto a Milano, quando uno pensa a Milano non pensa a queste realtà, perché sono un po' meno in vetrina degli altri quartieri che invece possiamo trovare a Milano, un po' perché essendo, almeno quello di cui parlo io, è un quartiere nuovo, diciamo, perché è stato costruito negli anni 60, ci sono questi grandi casermoni, questi grandi palazzi, in cui poi dopo negli anni 80 hanno messo un centro commerciale per appunto necessità di delle persone, perché è davvero grandissimi palazzi, non so se qualcuno c'è mai stato, e che quindi appunto ha la funzione di un dormitorio, ma non di un abitare. E questo ci fa un po' pensare appunto a cosa significa abitare e come questi immensi palazzi che hanno un sacco di famiglie, un sacco di persone, poi dopo quando esci di casa è un deserto perché non ci sono luoghi da abitare, cioè non ci sono posti in cui vedersi, ritrovarsi, se no appunto il centro commerciale. Che poi cos'è il centro commerciale? In sociologia un centro commerciale è un luogo che invece di dividere la dilatazione del tempo la comprime tutta in un solo luogo, quindi non è neanche un uscire davvero fuori. E quindi sì, questo è quello che riguarda un po' il progetto. Invece Sofia, che è l'altra mia collega dell'Accademia, ha parlato invece più del fatto che il fatto che ci siano sempre dei tagli maggiori alle istituzioni scolastiche in questo caso, e di come appunto è difficile abitare un posto se c'è una mancanza di spazio, cioè se questo posto manca di spazio per le persone che studiano dentro a questo. Quindi questo. Avete domande? Sì, io quindi vabbè, se ho capito bene, e da quel poco che ho visto, è molto fotografico, visivo, sì, come racconto, sì. Con anche accompagnato da testo. La domanda che mi sorge spontanea è se avete cercato di trarre delle somiglianze o invece delineare delle differenze tra questi quartieri dopo averli raccontati, quindi se tra le varie tre pubblicazioni, sì, che avete fatto una specie di non so, confronto, o comunque se sono emerse da questi racconti, sono emersi o erano parallele o consecutive? No, allora erano abbastanza consecutive, non cioè, di penso tanto. Che sia diverso raccontare Galaratese rispetto a raccontare Brera, però non è detto che non emergano anche. No, allora in realtà forse dei punti di incontro, soprattutto nei primi due, sono che sono proprio sfondi di denuncia sociale, diciamo, hanno più questa matrice. Anche perché del secondo volume la mia collega ha fatto un altro lavoro che invece si chiama Paperelle, che è un lavoro molto interessante, è un lavoro di disegno e di poesia visiva. Praticamente è un A4, un po' più grande di un A4, e la prima cosa che la prima pagina è la piantina di Brera, e poi ci sono delle carte trasparenti, semitrasparenti, in cui poi viene scritto in base alla stanza di Brera un piccolo testo. Questo testo è tratto da una registrazione di un evento che è stato l'anno scorso, se non sbaglio, o addirittura ormai 2 anni fa, che non so se avete seguito la cronaca, praticamente nel cortile dell'Accademia Napoleonico c'è questo, hanno messo per la Design Week questa, una grande vasca con Napoleone al centro, questa, una grandissima vasca che porterà via tutto lo spazio alle persone per appunto camminare. Loro poi oltretutto non è che hanno, studiando nell'Accademia c'è la Pinacoteca, sempre pieno di turisti, hanno molto poco spazio per le aule, hanno molti pochi materiali, è molto piccolo lo spazio, quindi già fare questa gigantesca piscina in mezzo a un cortile dell'università era una problematica non indifferente. E quindi loro cosa hanno fatto? Hanno organizzato una protesta che consisteva nel lanciare delle paperelle in questa piscina. E quindi il testo di questo magazine è la trascrizione, una registrazione di questa mia collega e altre persone che parlano durante questo lancio e lanciano anche le loro paperelle. E questo, diciamo, un po' più a sfondo, diciamo, sociale. Ritorno alla campagna invece è un po' più filosofico. Ritorno alla terra, scusami, è un po' più filosofico, parla un po' più dei tempi, della differenza dei tempi tra la città e la campagna, queste cose qua. Quindi sì, sono prospettive diverse. Forse anche perché i primi due sono stati fatti che ci confrontavamo di più, perché abbiamo fatti nello stesso periodo, invece il terzo è stato fatto un po' più tardi. Ma nascete sociologhe, fotografe o editrici? Allora, io in realtà studio sociologia, sto quasi per laurearmi, se Dio vuole, e la mia amica invece studia entrambe all'Accademia di Brera e sono studiano grafica d'arte. Quindi, infatti, abbiamo esposto anche oggi dei lavori che non riguardano il collettivo, ma sono loro personali, che appunto sono con varie tecniche di stampa, lastre, litografie, queste cose qua. C'era una cianotipia anche, quindi sì. Però, vabbè, ci occupiamo, siamo abbastanza trasversali, diciamo che ci interessa di cosa fa l'altra. È anche bello avere in queste realtà persone che fanno cose diverse. Non so se anche voi avete la stessa visione, magari sì. Bello è bello, sì, e ci sono. Sì, cioè alla fine questo è arricchente nel lavorare con gli altri, secondo Ma me. Diresti che è un po' un progetto in cui la fotografia può essere utile a una critica sociale? Sì. O il prodotto editoriale in sé, che poi presenta anche testo o altro, ha come fine comunque la critica sociale? Sì, sì, sì. Cioè, non solo, perché c'è anche tutto un discorso di estetico sicuramente, però sì. Sì, però è una critica sociale non così diretta, ma molto più una narrazione più che una critica, perché alla fine noi in cosa facciamo? Noi narriamo attraverso le immagini quello che, qual è la nostra visione. Poi ovviamente la nostra visione è critica, quindi necessariamente uscirà un messaggio che ti dà una posizione e un pensiero, e quindi tu poi sei tu che devi appunto decidere in che termini posizionarti a riguardo. Però sì, sicuramente c'è un fondo di critica, perché ognuno ha le sue prospettive e quando le esprimi necessariamente, se non sono, come si dice, quelle che vanno, esatto, neutre, oggettive, non sono sempre un po' delle critiche. Almeno questo nel nostro caso. No, per ricollegarmi a quello che chiedevo e parlavamo prima con Bea, volevo chiederti se avete fatto autoproduzione. Sì, noi siamo tutti autoprodotti, non abbiamo nessun finanziamento di nessuno. Ok. Sì, tutto autoprodotto. Tutto, quindi poi il risultato finale viene portato in giro tramite. Sì, siamo stati in realtà in questi anni da un po' di parti. Abbiamo provato anche a partecipare a Sprint, che prima Bea ne parlava, non ci hanno preso, ahimè. E quindi, no, beh, siamo state a Torino, abbiamo collaborato con Libera anche, perché facevano un campo di Libera sull'abitare in un quartiere di Corato, un quartiere un po' malfamato, e stavano facendo un progetto di qualificazione sociale, quindi siamo andate a parlare del nostro progetto con loro anche. Quindi sono state anche in Puglia, poi vabbè, Milano, mi ha fatto un evento alla libreria di Vietadino, non so se conoscete, e quindi sì, diciamo, ho cercato di vendere un po' ovunque, un po' i social ci aiutano sicuramente, questo sì, e sì, tutto autoprodotto, sono tutti magazine, non c'è vero libro, perché vabbè, non ce lo possiamo permettere, è un po' perché anche per adesso non abbiamo ancora quel materiale per farlo diventare un libro, come diceva appunto Bea prima, condivido pienamente. E è rilegato? Sì. No, è pinzato. Pinzato. È pinzato, però Paperelle ha rilegatura giapponese, che è una cosa fatta a mano con l'ago, quindi dipende. Però la prima trilogia sono tutti pinzati. Scelta del formato prettamente economica? O No, perché il mio, per esempio, allora, quello di Sofia è metà di questo. Il mio è questo, però girato così, quindi si apre da questo lato. Invece il terzo è un A4. Quindi sì, economica, però sul formato siamo abbastanza, cioè ci piace, cioè, fare le cose come le vogliamo noi, diciamo. E quindi sì. E il nome del collettivo, La Bella Estate? In realtà non l'ho scelto io, perché queste mie amiche erano in classe insieme al liceo e avevano fatto un podcast a scuola che si chiamava La Bella Estate, appunto, vabbè, eccezione di Pavese, e niente, e alla fine abbiamo ripreso questo nome, abbiamo chiuso questo podcast e abbiamo fatto questo collettivo, quindi sì. Sì. Un'appropriazione culturale. Sì, del tutto. Sì, vabbè, è un bel nome alla fine. Però in realtà siamo ancora indecise, non sappiamo bene come. Ci piaceva anche Rane Ubriache. Rane Ubriache? Però. Spettacolo. Vero, anche quello è bello. Ispirano entrambe molta serenità comunque. Ah. Sì, vabbè, siamo tranquille. Serene. E niente, questo. Vabbè, quindi se qualcuno fosse interessato trova... Sì, in realtà me ne sto per andare, però per andare, se last minute, se al volo qualcuno interessa, e niente, questo. Se no, da Instagram? Sì, la.bellestate, vi posso lasciare anche il biglietto alla visita, e niente, grazie per averci ospitato oggi. Grazie a te, a voi. Niente, questo. Spero che... mi hanno detto che fate delle cose anche voi sull'abitare, dovete farle? Ma qualche cosa, ma ci proviamo. No, abitiamo, cioè abbiamo una casa. Noi abitiamo, sì. Principalmente quello. No, sì, è un tema che sta a cuore anche a noi. E abbiamo un po' di progetti, okay, su quello, okay. Quindi teniamoci in contatto. va bene, ok, certo, certo, certo, certo. Deve ancora un po' forse partire dal lato nostro, sta per partire 2025. È partita dietro le quinte. Nel 2018 in realtà, ad abitare. Dietro le quinte, no, però ha anche un altro progetto più interno, sì, più tipo, indipendente. Tipo, andate a abitare tutti insieme? No, no, no. Un po', però andiamo tutti insieme a conoscere luoghi. Verso fine gennaio dovremmo fare una presentazione di questo progetto, quindi ti inviteremo o vi inviteremo come collettivo a partecipare. Va bene? Certo. Spoiler, dai, cacciaci uno spoiler. No, spoiler, niente, è un progetto sull'abitare urbano, rurale, sul concetto di abitare in sé. Ma in che termini? In termini antropologici per lo più. Ma in che senso, in che termini? No, cioè abitare cosa vuol dire per te? Cioè, cosa andate a indagare? Cosa vuol dire per me abitare? Sì. Ma, io ho ripreso un po' tutta la teoria di Heidegger, quindi su come abitare vuol dire essere al mondo, il modo in cui siamo e abitiamo e modelliamo la realtà intorno a noi è quello che anche trasforma quello che poi siamo e pensiamo e come ci relazioniamo con gli altri, quindi la nostra possibilità di mettere mano sul luogo su cui siamo e è quello che poi va a determinare tanto di chi siamo. Questo un po' in breve, quindi abitare la città oggi come oggi in modo un po' diverso da quello che è l'ideologia predominante, vuol dire fare un po' di resistenza, creare dei luoghi e degli spazi capaci di dare possibilità di esprimersi soprattutto e di mettere mano. Okay, e poi ci sono altri discorsi sul pubblico e il privato, sul rurale e l'urbano, insomma è un po' questo per darti un'idea. Però. Un progetto conoscitivo. È un progetto di ricerca quello che stiamo sviluppando qua, nel senso che andremo a intervistare tante realtà e proveremo a raccontarle, poi le ospiteremo anche qui. L'idea è creare sia un po' di network con loro e poi creare tra l'altro un testo che racchiuda le esperienze e le realtà e poi un po' un racconto teorico che ne delinei differenze e similitudini, quindi da cosa scappano, se tutti dalla stessa cosa, cosa cercano. Se scappano, perché non è detto. Ma non ho capito chi scappa. Chi prova a vivere fuori dalla città, chi se ne va dalla città, chi se ne va dalla provincia, chi sono i soggetti in generale, chi cambia modo di vivere. Chi se ne occupa è Exalge, ci sono questo Federico, era chiaro, Lara. Piacere. Io, giovani tanto. Ok, quindi ok, interessante, tante cose. Troppe, sì, decisamente troppe. Tante cose. Bene, qualcuno ha delle domande? Ma su cosa? Non so. Sì, vedi, non avevo dubbi. Vuoi farla al microfono o te la adesso ripeto al microfono? Per il futuro, sì. Sì, ti sento benissimo. Non ti preoccupare. Finisce sempre così. No, no, ha senso la domanda. La accolgo volentieri anche. No, in realtà io nel mio libricino dico, cioè mi interrogo, cioè. Ah, davvero? Grazie. Non scappare. Mi interrogo sul fatto cos'è un luogo. Perché prima dell'abitare ho pensato cos'è un luogo, cioè cos'è un luogo. E la risposta che mi sono personalmente data di cos'è un luogo, che il luogo è diciamo la, di cos'è un luogo. La registri? Ma devi registrare? Ok, va bene. Ok. Cioè, cos'è un luogo? Per me un luogo è... cioè, io ho studiato anche scenografia, in realtà, quando ero al liceo. Per me il luogo è la scenografia dei miei ricordi. Cioè, cos'è un luogo? Un luogo che senti tuo è il luogo che è stato la scenografia dei tuoi ricordi. Quindi tu, quando sei lì, passi, riesci a riconoscere che in quella panchina c'è stato quell'evento, dietro quell'albero quell'altro. E il fatto di vivere in un posto che ha solo grandi palazzi, parchi e un centro commerciale e nient'altro, come qualsiasi area industriale, poi, cosa significa? Significa che tu e chi ci abita iniziate a vedere quella scala, quella tettoia in modo diverso, e reinventate il luogo in cui abitate. E quello è abitare. Abitare è sentirsi un po' a casa, e casa è quando tu collezioni dei ricordi in certi luoghi. E questi luoghi, che una scala di un centro commerciale non è stata pensata sicuramente per avere delle persone che ci fanno della socialità, se non è nient'altro lo fai. E questa è sempre una cosa che io, quando ero più piccola, ho sempre odiato, in realtà, però poi dopo alla fine è parte di me, e è un reinventare i luoghi in base alle necessità, perché i luoghi possono essere ostili, possono essere non, diciamo, pensati per una socialità o per certi scopi, ma poi sono le persone che li reinventano o che ne danno vita, oppure riprendono certi spazi, certe cose. Penso che con un'associazione poi uno lo sappia, che riprendi certi spazi magari che non sono, cioè, non sono più usati per fare qualcosa. Domani la riempiamo di scale. E quindi sì, questo, cioè, è questo il è questo un po' quello che ho pensato, per cui mi sono interrogata, e che alla fine è un po' questa ostilità sotto sotto, se ci vivi da sempre ti piace, perché comunque la superi con gli altri, perché da solo sicuramente non la puoi superare, però la superi con gli altri, la superi con gli amici. E questo, quindi è questo di cui si tratta. Poi si parla anche un po', un minimo, anche del fatto che è un quartiere comunque un po' abbastanza popolare, diciamo, quindi anche di un evento, di uno sfratto, si parla dentro al libro, che appunto che è un processo molto violento, che una comunità comunque può subire, anche se non tocca a te, lo sai, ed è brutto, e vedi tante cose brutte, e per poi... semplicemente perché devono costruire, hanno costruito Cascina Merlata di fianco, e quindi hanno fatto questi appartamenti super lusso e non potevano tenere una casa popolare lì, perché ovviamente a Milano, visto che è una città molto vetrina, molto luxury, devono togliere tutte le cose che non sono più belle e che loro hanno palesemente lasciato hanno lasciato morire, perché se tu non fai delle ristrutturazioni a delle case, ovviamente prima o poi queste case si spaccano, la gente non ci abita più, vengono occupate, inquilini, non inquilini, problemi clandestini dentro, e diventa una schifezza. Però questo è perché dall'alto non c'è mai stato l'interesse a mantenere questi posti, dei posti decenti. E quindi questo, sicuramente c'è anche questo di sfondo, perché tu non puoi parlare di questo, però devi anche sapere cosa c'è intorno a te. E questo ti dà tanto, cioè tutto ciò ti dà molto da pensare su molte cose. Quindi sì, è un po' il vivere ai margini, è sempre interessante, perché ci sono tante cose che si incrociano all'interno, mentre vivere in certe circoscrizioni o certi quartieri più centrali sai già più o meno il bagaglio di persone che ritroverai. I margini sono sempre delle battaglie, in sociologia il margine è un po' il luogo del conflitto, perché c'è gente che sta per essere espulsa, c'è gente che ci vuole rimanere dentro, e quindi c'è un po' questo mix di te sociale. E niente, questo. In un'ottica di espansione, sicuramente, sì. È una bella lotta impari, tra l'altro, perché non si può, penso non si possa niente per ora, per come si è organizzati e come si fa resistenza adesso contro il Merlata Bloom. Assolutamente. Che mi duole il cuore vedere ogni volta che passo da lì. E... però mi ha fatto riflettere il fatto che tu abbia detto che comunque, nonostante ci sia della violenza in certi luoghi, allargo a violenza il termine, riesci comunque a farli tuoi, quindi ad abitarli, e ad abitarli poi con quel concetto romantico di ricordo, no? Quindi di costruirci comunque una vera e propria casa. Bello. Va bene, io vi saluto. Grazie a te. Grazie mille a te. Fatemi sapere i vostri progetti. Sarai aggiornata minuto per minuto. Beh, visto Gio, che bello. Fantastico. Sono delle persone che a differenza nostra hanno un sacco di cose belle da dire. Ma noi siamo qua per questo. Per farci interrompere. Per farci educare. La scaletta cos'altro prevede? Il tasso alcolico più alto o quello più basso? Beh, ma Lauri non ha assolutamente... No, Lauri ha già fatto. No, io chiedo. No, ma io chiedo. Allora, io direi prima le donne. Ok. Sempre, no? Sì, va bene, quindi, perfetto. Giada e Giulia, Giada Duino e Giulia Pax, intanto un applauso. So. Pax. Bravi. Che bello, che ci portano? Cosa ci portano? Lo sai? Lo Scavaios. Hai studiato? Hai Lo letto? Scavaios. I Cavalieri del Tennessee? Lo Scavalieros. A Caballeras. Buonasera. I cavalli. Voi riuscirete a parlare una alla volta? Sì. Ok, fantastico. Se no vi regalo un microfono. Il mio, prova. Parliamo insieme. In coro. Coro. Okay. Non abbiamo fatto le prove oggi. Allora, io voglio sapere tutto, non so niente. Neanche noi sappiamo niente. È passato no, un po' di tempo. No, voglio farmi spoilerare tutto. Vuoi sapere tutto in generale? Tutto quello che volete spoilerare voi. No, ma non spoilerare contenuti necessariamente, ma di stretti dintorni. Cosa vi ha portato a scrivere un libro intitolato I cavalli del Tennessee? Che cos'è? C'è immagine, c'è testo. Non ti sei preparato un po'? Cioè, io mi preparo insieme a loro, sto facendo le domande. Esatto, è stato in casa tua per un anno. Insomma, io ho intanto il primo ammesso. Libro, cioè, quindi in una forma editoriale rispetto ai progetti che abbiamo finora presentato, sì. Senza nulla togliere a uno o all'altra forma, però partiamo dal fatto che è un libro edito, costruito in un certo modo e quindi alla fine sì. Diteci voi perché arrivare a un prodotto di questo tipo e da cosa, che cosa raccontate? È un racconto illustrato? Esatto, sì. È un graphic novel al maschile e non al femminile, molto importante. E niente, io scrivo di lavoro più o meno e Giulia invece disegna e fin qua. Quindi ok, combo fin perfetta. Qua si capisce chi ha fatto cosa e niente, no, com'è nata l'idea. Giulia in realtà prima dei Cavalli del Tennessee aveva già pubblicato un graphic novel, aveva già disegnato per un altro scrittore una storia molto bella e infatti il graphic novel si chiama Calat. Vabbè, giusto farla. E quindi, insomma, io sapevo che la conoscevo già come illustratrice, come artista, oltre che come amica. E quindi, approfittando anche di un bando... Ah sì, era un bando. Sì, di un'altra casa editrice, abbiamo detto proviamo a presentare qualcosa. io dovevo partecipare anche a un corso di scrittura creativa e quindi pensavo, mettiamo in questo grande calderone tutte queste cose che devono succedere e facciamoci, cioè io pensavo mi farò magari aiutare da questo corso che poi in realtà non ho mai più fatto e presentiamo questo progetto che poi ha passato diciamo la prima fase di test e basta, poi in realtà non siamo più andati avanti con questa casa editrice e poi c'è stato il Covid e quindi sì, abbiamo abbandonato un po' questo, è rimasto un po' lì nel cassetto. Nonostante ci abbiamo comunque continuato a pensare, perché è andata così, e dopo il Covid comunque Giulia, appunto i suoi disegni cioè, si possono vedere tranquillamente anche su Instagram, e oltre che anche sul Corriere, perché è molto importante dirlo, diciamo altro spam, giusto, comunque bisogna dirlo. Corriere di Lecco. Corriere di Lecco. Legnano. Di Legnano, Corriere di Legnano, esatto. E, no vabbè, quindi cioè nel senso per dire che visto che anche prima avete parlato dei canali social, di come vengono usati, che comunque per alcuni versi possono essere una vetrina e sono un modo di comunicare anche quelli e quindi molte volte possono essere utili diciamo per dar voce, per essere un po' anche degli amplificatori. Avete pubblicato anche su Instagram? No, però diciamo che l'editor che ci ha trovato Giulia su Instagram e tramite Instagram appunto poi insomma si sono sentiti, hanno fatto delle chiacchiere e chiedendo se lei avesse un progetto. Certo, pronto. Esatto. Prendilo. E quindi insomma poi è partita questa conversazione con questo editor della casa editrice per cui abbiamo pubblicato, che si chiama Edizioni BD. E quindi poi insomma è nata un po' così questa. E noi in realtà quando abbiamo firmato il contratto non avevamo tutta la storia, perché poi anch'io un po' come Edoardo ha detto prima con Nodi di Nodi, anch'io sono un po' mossa da pigrizia e io avevo forse metà della sceneggiatura. Dopo che abbiamo firmato il contratto ho detto forse mi devo muovere, dobbiamo arrivare a una conclusione. E quindi poi abbiamo avuto quanto tempo? Sei mesi? Non ricordo, sì. Sei mesi circa tra finire la parte di scrittura e la parte di illustrazione, ma posso chiedere? No, scusami, vai, vai. Secondo me tu hai scritto per 3 mesi e io ho disegnato per 6. Okay. Questo io mi ricordo, beh, però... Ma esatto, a proposito di questo, come funziona il processo creativo tra scrittura e illustrazione? Cioè va avanti di pari passo, deve arrivare prima uno e poi l'altro? Cioè almeno nel vostro caso come è funzionato? Allora nel nostro caso lei ha scritto una sceneggiatura come se fosse per teatro, quindi l'ha scritta tutta e io dopo ho fatto lo storyboard, però... Secondo me alla fine ci siamo accorte che non era proprio la roba più liscia possibile. Infatti, secondo me, in un lavoro futuro la cosa top sarebbe fare lo storyboard insieme alla sceneggiatura, quindi già uniti e non farlo successivamente. Come, per esempio? Nel senso scriverlo effettivamente insieme, sì, presenti entrambe, anche, creando nello stesso momento sia scrittura che... O comunque stando un po' più dietro alla scrittura con anche la parte disegnata, okay. Perché così sono arrivata tutta dopo che avevo sto papiro di Roma da disegnare e mi sono trovata un po' bloccata su certe scene perché magari, non lo so, non sapevo come renderle interessanti visivamente. Invece secondo me facendolo insieme sarebbe stato un po' più liscio. È stata una cosa forzata tra virgolette quella di non poterlo fare insieme dagli eventi da, no no è stata quotidiano, secondo me una perché scelta. Abbiamo iniziato così e okay. Anch'io pensavo fosse meglio avere già tutto scritto e poi io mi facevo gli affari miei con la parte scritta e avrei potuto disegnare con calma, però secondo me nella fase embrionale è meglio già unire. è come se scrivesse e disegnasse una persona sola, praticamente. Anche perché poi il lavoro di disegnarlo è molto solitario, perché poi lei ha finito, tra virgolette, quindi... Anche quello di scriverlo. No? L'avete scritto più a quattro mani? Ma forse per questa... Esatto, forse in questo caso diciamo che la storia è stata scritta proprio in forma di sceneggiatura, appunto come se fosse una sceneggiatura quasi anche cinematografica, perché comunque descrizioni e dialoghi, e essendo anche un po' il mio primo approccio, ho pensato che la forma della sceneggiatura potesse essere quella adatta. Però in effetti mi rendo conto che magari si potrebbe invece utilizzare la forma del racconto come scrittura, giusto per avere magari la parte iniziale di quello che è una storia scritta, che poi viene rimaneggiata da entrambe le parti a forma di storyboard, e poi da lì prende forma. Quindi cioè, all'inizio è stato un lavoro individuale che poi alla fine si è unito e ha trovato poi, insomma, ha provato anche, cioè, alcune scene chiaramente sono poi state fatte diverse, sono state tagliate, sono state riviste, quella che si chiama l'economia della scrittura. Com'è stato scrivere a quattro mani? Unificante o dividente? O nessuno dei due? No, credo unificante, nel senso non è stato... Cioè, non ha avuto pesi... Nessuna faida. Cioè, sono qui a presentarlo insieme, quindi è andata bene. Sì, no? Sì, beh, magari un momento esatto. C'è stato e poi si è risolto. No, provavamo i dialoghi insieme, tipo, secondo te ha senso che le persone parlino così, con delle frasi fintissime? Sì, esatto, ecco, la parte dei dialoghi è molto difficile. Molto difficile. Cioè, perché poi li rileggi e dici, ma la gente non parla così, però non puoi neanche scrivere i dialoghi come parla la gente veramente, perché tipo bella bro, cioè, e... sarebbe cazzo ogni due secondi probabilmente. Poi ci sono anche storie dove c'è solo cazzo nei dialoghi, però diciamo che non era questo il caso. Però no, è stato bello. Non siete state iperrealiste, ecco. Avete modificato un po' la scrittura su un target o un'idea di lettore? Sì, vabbè, il target è young adult, quindi sono... dai 18 ai 30 anni, mi viene da dire. Facciamo 40. Ve l'ha imposto l'editore? No. Facciamo 40. Sì, no, però forse per il tipo di storia magari un quarantenne si annoia oppure diventa nostalgico. Non so. Oh. Forse si annoia. Volete dirci in breve, che così per accattivare i nostri lettori. Futuri lettori? La trama? Allora, è ambientato in Dillo che non provincia. Ci sono i cavalli. Ah no, vabbè. Neanche i cavalieri, tra l'altro. Lo diciamo... Allora, ecco, farò così. Leggerò quello che c'è scritto dietro. La complessità delle relazioni si intreccia alla consapevolezza di se stessi, in momenti e in luoghi in cui l'amore per gli animali e i loro gesti d'abitudine diventano forza e punto di riferimento da seguire anche quando tutto sembra essere perduto. Questo secondo me non l'ho mai fatto, leggere per spiegare, ma secondo me potrebbe essere un po' il succo di quello che racconta I cavalli del Tennessee, ambientato in provincia, quindi comunque un luogo particolare dove abitare, se vogliamo ritornare all'argomento. E parla di relazioni che alla fine si intrecciano e che nascono e finiscono, della loro complessità, della difficoltà del prendere decisioni nella propria vita e della difficoltà anche del parlarsi e di comunicare, come invece magari fanno diversamente gli animali, e da qui anche un po' i cavalli. E il modo che hanno gli animali di comunicare rispetto magari a quello che sono gli esseri umani. Con meno parolacce. Sì, senza parolacce. Senza parolacce. Esatto. Ah, sì, sì, ci sono. Credo proprio di sì. È una storia che avevi già, che avevate già in mente, avevi già in mente qualcosa che ti sarebbe piaciuto esprimere, o è stata un po' più a tavolino? No, sì, diciamo che un po' anche entrambe. Era alla fine era, secondo me era il 2018, una roba così. Sì. Comunque era prima del Covid, forse 19. E quindi parlare delle relazioni, del riuscire a dirsi le cose, del cambiare, prendere decisioni, penso siano temi caldi a tutti, un po' in generale, però soprattutto nei giovani e negli adolescenti anche. Quindi era un, mi premeva forse un po' comunicare di queste cose, e quindi sì, è nato un po' dall'urgenza di dire che palle, diciamoci le cose, e quindi sì, un po' è nato da quello. Ce l'avevo già in testa, sì. E invece un'esigenza espressiva al lato grafico? Oddio, io avevo voglia di fare un altro libro, e ci avevo già da sottomano che scriveva, quindi le ho detto, ma cioè, che bello, facciamo qualcosa insieme, perché... Io in copertina vedo un essere umano, gatti e cavalli e cane. Cavalli, sì. Esatto. Ti era, cioè, disegni di tutto? Prima disegno di tutto. Mi prima piacciono di questo molto avevi... gli animali. Ok, quindi disegnavi già anche animali. Sì, sì. No, ma perché io, venendo dall'illustrazione, soffro un po' quando faccio le cose lunghe, i libri. Perché l'illustrazione si risolve nell'illustrazione. Cioè, quando me la commissionano, io la faccio ed è finita. E invece in un libro lavori per mesi sulle stesse, cioè gli stessi personaggi, la stessa storia, si appiattisce a livello di stimoli, e quindi è stato faticoso, e il fatto che l'avesse scritto lei mi ha dato più sprint di finirlo, perché altrimenti non lo so. È per questo che farei fatica a fare un libro totalmente da sola. Il graphic novel ti avrebbe fatto cedere. Uccisa, sì. Sì. I libri ti uccidono. Lo scriviamo come le sigarette, sì. Su tutti i libri. No, io da sola non so se sarei in grado, cioè adesso non sono pronta a scriverlo e disegnarlo, perché è veramente come fare un bambino, secondo me. Sì. Avere un bambino da soli è molto più difficile. Avere un bambino da soli è molto più difficile, infatti, quindi insomma. Anche un po' coi libri, però sì. Una vostra creazione. Sì. Esatto. Sono tre domande da questo. Domande dal pubblico? From the public. Lauri, niente, è incredibile. Sai già tutto. Sai già tutto. Neanche una domandina. Va bene. Esatto. Questo... fai da sola le domande. Ci dai gli spunti. Vieni a farla al microfono, dai, che prima sei venuta sul palco per registrare. E il microfono, se no non si sente la domanda. Non ti lascia la sedia. Eccomi. Se ne va. Allora, ragazzi. Laura. No, in realtà volevo sapere, ma... tu hai detto che sono, prima mi stavi raccontando appunto in backstage, che sono delle, cioè, sono quattro personaggi, giusto? Che raccontano di momenti significativi di cambiamento, cioè un momento della loro vita in cui hanno fatto una scelta che poi ha cambiato un po' il loro futuro, insomma questo momento di passaggio, di crescita. E non so se si può fare degli spoiler. Sì. E un po' racconta, cioè immagino che tu abbia scelto, che abbiate scelto questi momenti anche perché magari sono significativi o no per voi, e non so se vogliamo, insomma, volevo capire se volete raccontare questo aspetto più tecnico. Ma sì, cioè, come un po' dicevo prima, diciamo, cioè, le relazioni tra le persone è il fuoco gigante che unisce questi quattro personaggi, perché poi effettivamente ci sono due relazioni. Mi rendo conto solo ora che è molto coppia centrico, però è come è anche un po'. Beh, sì, no, però comunque coppia centrico. Ma coppie, però coppie come? In questo caso pari. Pari, sì, sì, sì, pari. Coppie pari. Coppie, semplicemente coppie. Coppie di persone. No, ma infatti torniamo alla main question. Esatto. Quindi dicevo, sì. Scelte che appunto le relazioni in sé nella vita di una persona cambiano molto la vita di una persona. Quindi la scelta di conoscere, andare avanti nella conoscenza di una persona o smettere di avere a che fare con una persona cambia totalmente quello che è poi magari l'andamento della vita di una persona. E quindi si tratta un po' di prendere coraggio in queste scelte anche, quindi trovare il coraggio di prendere delle scelte per se stessi e quindi anche abbandonare qualcun altro, o prendere delle scelte per se stessi che includono qualcun altro. E quindi quel qualcun altro lo includi nella tua vita e entra a far parte nella tua vita. Quindi credo che un po' l'esigenza anche di questo libro, di questo racconto, sia anche un po' l'importanza che hanno le relazioni all'interno della nostra vita. E quindi diciamo che sono due storie parallele che parlano di coppie, ma che comunque poi funziona così per tutti i tipi di relazione, per tutti i tipi di, per tutti i gruppi di persone, insomma, è quello che, cioè, questo credo sia un po' la scelta, ecco, cioè quello che è l'importanza di questa scelta. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, sì, hai risposto. Va bene, ritorno al mio posto. Grazie. Prego. Confidence. Vuoi fare un po' di cabaret adesso? No, basta. Altri interessamenti? Attenzione, così. Dai, ci dite come finisce? Sì. Eh no, il titolo arriva da dalla fine. Ah, quindi è già spoilerato subito. Il titolo arriva dalla fine. In realtà il titolo su Sky Sport 1. No, il titolo è un graffito. In realtà abbiamo scelto prima il titolo di fare tutto il libro. Questo non succede spesso. Particolare. Che io quando facevo la pendolare vedevo sempre questo murales sul treno, che adesso non c'è più, e diceva: un giorno abbevereremo i cavalli del Tennessee, ma era scritto tipo gigante e quindi non potevi non vederlo. E questa frase mi era rimasta, cioè me l'ero segnata, e dicevo: boh, bellissimo, cioè credi battiato, assurda. E quindi ho detto: un giorno la devo usare per qualcosa. E io tipo: Giada, facciamo un libro, lo chiamiamo Un giorno abbevereremo cavalli del Tennessee. Però ci hanno detto poi che era troppo lungo e quindi è diventato i cavalli. La abbevereremo è difficilissimo. Sì, sì. Quindi non c'è nessun legame diretto con il contenuto del libro? No, niente. Solo alla fine c'è il murales. È un po' un messaggio di speranza. Un giorno. Sì, è una bella metafora in realtà. Murales che hai rifatto tu, quindi, o è una fotografia? No, ma speravo di poter avere una fotografia, ma non c'è più. Sì, no, l'ho ridisegnato, ma non somiglia proprio all'originale. L'originale era gigantesco. Cavalcavia? No, era su una cinta e ogni lettera blu occupava tipo una porzione di cinta, ma era lunghissimo. Forse l'ho sognato, forse non è mai esistito. È stato un sogno collettivo, perché molte persone che prendevano l'S5 Evviva, grazie. Costruiremo una fontana per i cavalli del Tennessee. Grazie a voi, bravi voi. Disponibile su Amazon. No, un paio di copie le avremo qua. Poi un paio di copie saranno disponibili in questo luogo. Su Sky Sport 1. Ah, una è acquistabile anche adesso, se volete. Comunque. Merci. Grazie a voi, che bello. Vabbè, Gio, siamo andati lunghissimi. Lunghissimi, eh? Quindi... Io no, ho perso la concezione. La connessione, la concezione. Ma invitiamo quel povero uomo disperato. Last but not the least. Che tra l'altro adesso parliamo anche di del format stesso, no? In verità stiamo invitando il collettivo. Sì, ecco a voi il collettivo Macao, un grande applauso. Siamo rimasti in pochi. Sono molto contento. Ma che devo usare il Macao, microfono? Certo, si sia abbeverato dalla nostra fontana del Tennessee. Non si può fumare dentro, eh no. Devo usare il microfono. Non faccio più. Cioè, perché è stata ignorata questa fontana. No, Edo. Devi rimanere. Edo. Vogliamo fare una pausa? Pausa, sì. Poi no, iniziamo? No, no. Addormento. Se facciamo una pausa mi addormento. Va bene, allora Fede... Com'è? Questo format non convince. No, io vorrei leggervi un paio di messaggi che sono arrivati. Stati scritti sul gruppo curatoriale che usiamo per scrivere il libro di cui dopo magari parliamo. Allora, perché io ho detto... Ma come si permettono quelli di Exalge? No, ma va, figurati, cioè io garantivo per Exalge, quindi... Meno male. Insomma, però tipo io ho detto, cioè posso dire com'è andata, no? Cioè, qualsiasi cosa, qua microfoni aperti. Non c'è censura, no? Non c'è censura. Le conseguenze sono sempre... Personali, ma neanche, non ci sono conseguenze. Vai. Vabbè, non credo, diciamo, è un periodo che io, Joe e anche Jack andiamo spesso ad arrampicare e fondamentalmente una mattina mentre si andava a arrampicare Joe mi ha detto che stava per presentare insieme a Exalge e Jasmine il nuovo progetto, diciamo, sui libri dell'associazione e mi ha chiesto se io potevo essere interessato o meno a raccontare un percorso che sto facendo, che in particolare è il percorso di scrittura del libro di Macao. Ed eccoci qui. Al che io ho detto, ma perché no? Però di cosa potremmo parlare? Che cosa potrei dire? Perché di fatto il libro non c'è, cioè non è ancora stato scritto niente. Poi a un certo punto, però per esempio è un libro che state scrivendo grazie a un finanziamento, quindi già questo è un argomento. Sì. Un libro e già c'è un'intenzione dietro, perché avete scelto tramite una forma editoriale di scrittura di raccontare un percorso multiforme. Anche importante per la città di Milano, quindi questa è un'altra cosa interessante. Non solo, ma spoiler, a un certo punto nei giorni passati avevi usato un termine particolare che era, se non ricordo male o comunque cerco di avvicinarmi, il libro storiografico. Sì, può essere, esatto. E quindi è un grosso lavoro di archivio. Il fatto che tra un tabloid, un copertina rigida, una serie di tre magazine, degli editoriali a filo Singer e una libreria piena di libri usati, compare anche un libro storiografico che ancora non c'è e allora, che comunque racconta una realtà milanese molto importante per noi tutti. Allora sì, per concludere il discorso di prima, poi alla fine mi sono ricordato che non ero da solo io che scrivevo il libro, ma che io insieme a un collettivo lo stavo scrivendo, e allora l'ho scritto sul gruppo dicendo, ma spero che non vi dispiaccia se cominciamo a parlarne. Allora, siamo i first time? Sky Sport 1 la... Assolutamente sì, assolutamente sì. Come si chiama? Assolutamente sì. La diretta, non esclusiva. Vabbè, un messaggio è stato, se è un cerchio informale di condivisione fra altri progetti, va bene così. Facciamo girare la voce e cominciamo a scaldare la cosa. Se invece siamo annunciati all'interno di un programma dove c'è un panel e noi siamo uno dei progetti che si presentano al pubblico, allora per me è buono. E per me, se c'è una situazione più frontale, anche se qualcun altro ha voglia di fare presentazione a due a tempo, è sempre bello. Cioè, di bene in meglio. Andava bene comunque. È sempre bello, no? Fantastico. E invece sull'archivio, poi parliamo del progetto velocemente, sull'archivio è arrivato un altro messaggio, perché il libro è finanziato da un bando del Ministro della Cultura, un programma che si chiama Italian Council, che è un programma pensato per il finanziamento di produzioni editoriali che tendenzialmente vanno anche all'estero. In questo caso noi da programma dovremmo andare all'estero, dovremmo andare a Madrid, a Reina Sofia, all'Unsound di Cracovia, alla Fondazione Onassis di Atene e a Museion, a Museion di Bolzano. Estero. Beh, Bolzano, cioè. Estero. Di fatto è... Cioè. E il titolo, il progetto ha un titolo, che però non si sa se è il titolo del libro, che è Archiviare l'ingovernabile. Allora io ho scritto a Giovanni, confrontandomi, ho proposto, diciamo, un payoff con cui comparire in questo momento, qua, e io ho proposto di scrivere processo di autocostruzione del libro Archiviare l'ingovernabile da parte del collettivo Macao. Al che Ferdinando, che voi non conoscete, ha scritto: io ho dubbi su questa parola dell'archivio, la lascerei da parte per un po'. La questione dell'archivio porta un tema caldo degli ultimi anni nell'arte attivismo, questo anche per Laura. Come restituire modalità così complesse tra estetica e politica? L'archivio è un format regolatore, selettivo e non aperto. È un apparato di visibilità. Quindi, quando si parla di impegno, starei molto attento ai contenitori a cui fare riferimento per organizzare metodologicamente dei processi che siano editoriali, performativi, eccetera. Però anche lui dice, a parte la comunicazione tardiva, non ci vedo nulla di male ad andare a confrontarsi. Beh, tutto ciò ci dà 1,5 milioni circa di spunti di cui parlare. Io riprenderei un attimo quel titolo, così si può definire. Perché lo riprenderei parola per parola. Intanto autocostruzione. Allora sì, auto-organizzazione, autocostruzione. Ma allora, Macao è un collettivo che ha occupato uno spazio a Milano per 10 anni. Quello sarebbe la parte dell'ingovernabile. Esatto, quello diciamo è un po' il contesto. L'ingovernabile è il contesto. È il contesto, diciamo. E a un certo punto l'anno scorso si è cominciato a ritrovare in cerchio e a discutere della possibilità di non dimenticarci quello che era stata l'esperienza all'interno di quel palazzo, fondamentalmente. Perché è molto semplice, cioè molti di noi già stavano perdendo i ricordi, fondamentalmente. E poi c'era anche tutta una componente più legata al come fare a, tra virgolette, regalare una cassetta degli attrezzi ad altre realtà, organizzazioni, gruppi di persone che potenzialmente... vogliono occupare un palazzo gigantesco, replicare per arte, sì, performativa, diciamo, e resistenza contro cultura. Cioè, alla fine l'occupazione è stata solo una modalità, non tanto, cioè, quello che è successo dentro, nel senso che, cioè, alla fine di fatto... No, i manuali delle istruzioni però si rifanno alle modalità. Sì, cioè, nel senso parla che... delle modalità. No, sì. Però lui ha usato un termine molto bello che è cassetta degli attrezzi, cioè non è un manuale di istruzioni. Ho sbagliato, in effetti, è una cassetta, sì, degli attrezzi, poi tu da quella puoi pescarci lo strumento che ti serve, però una serie di strumenti, poi tu puoi decidere di prendere il cacciavite, il martello e usarli, insomma, come una chiave inglese. Però ti dà una serie di strumenti, è molto, molto interessante questo termine. Ed è molto bello che una realtà come Macao abbia questo intento, perché alla fine è una realtà che ha agito usandone diversi gli strumenti, e quindi al di là dell'occupazione, poi a livello poi pratico ha fatto cose molto diverse, e quindi raccontarsi e non far decadere nel nulla, no? Un'esperienza così importante per la città è un gesto, adesso nobile forse è esagerato, però dovuto. E quindi questo sicuramente è un punto di partenza. Se non lo faceva Macao stesso, l'ingovernabile, probabilmente l'avrebbe fatto qualcun altro. Ma qualcun altro lo fanno in tanti, cioè l'hanno fatto in tanti, lo faranno in tanti, speriamo. Però il fatto che chi l'abbia fatto si prenda la briga di fare un lavoro di questo tipo, penso che sia molto molto importante. Ciò è bello. Sì, diciamo che almeno parlo per me, ma immagino di rispecchiare anche un po' quello che possono pensare le altre persone che stanno lavorando a questo progetto insieme a me in questo momento, diciamo. Però c'è sia una parte, diciamo, più performativa rispetto al come raccontare, e poi diciamo anche impaginare con l'editore, che sarà Nero, il libro, e dall'altra quello di la cassetta, portare una cassetta degli attrezzi e portare un po' anche un racconto storiografico di quello che è stato il percorso che ha portato alla costruzione, all'occupazione poi. Nel senso che il libro si dividerà in 5 capitoli. Il primo la genesi del movimento dei lavoratori dell'arte, che è un movimento francese. Adesso non so più raccontarvi tutta la storia, ma è un capitolo che si chiamerà Follia performativa, che di fatto si concentrerà soprattutto nella prima parte di Macao, quindi occupazione di Torre Galfa, Palazzo Citterio, gli spostamenti vari, poi l'entrata all'ex borsa del macello, fino a fondamentalmente la salita di sala, la prima salita di sala al consiglio come sindaco di Milano. Un capitolo dedicato alla care and economy, quindi le modalità di cura, organizzazione e gestione delle economie all'interno del palazzo, nel senso che poi alla fine c'è stato anche, diciamo, proprio una gestione economica a tutti gli effetti, nel senso che dentro quel palazzo, che aveva erano più o meno 2000 metri quadrati, comunque tra una cosa e l'altra, con dei modelli di redistribuzione economica il più orizzontali possibili, lavoravano in 100 persone in alcuni momenti. E poi un capitolo chiamato, all'inizio doveva essere suono, poi si è trasformato in 24H, e l'ultimo, che diciamo non abbiamo ancora scritto, ma sappiamo che è un po' l'elefante nella stanza, l'arte del fallimento. E niente, quindi questo è sì, ma mi fermo se avete qualcosa, se poi ho qualcosa da aggiungere, ma no vabbè, se vuoi andare avanti a raccontarci un po' la struttura del libro. Il libro più o meno è strutturato così: dovrebbero essere, appunto, l'editore è Nero, Nero, stiamo ragionando con loro, potrebbero essere, se non saranno, sarà anche molto iconografico. Quindi immagini grafiche, schemi, screenshot di chat, perché noi comunicavamo con Telegram, screenshot di chat, foto, screenshot di bello, video. Questo quindi mi fa venire subito una domanda, come vi siete suddivisi il lavoro di un progetto di questo tipo, ovvero c'è qualcuno che si occupa della parte editoriale, creativa, grafica del progetto, qualcuno che si occupa della parte di recupero dell'archivio, qualcun altro che si occupa magari più dello storytelling e del messaggio diciamo generale che il libro vuole trasmettere, o non so. Sì, allora diciamo che in questo momento quello che abbiamo fatto è diciamo aver finito l'archivio da cui poi scriveremo il libro. Questa è la prima cosa definitiva che abbiamo fatto. Quindi c'è un gruppo che si è occupato di questo? Cioè... Sì, nel senso che ogni capitolo ha un suo gruppo di persone che lavora. Nel senso che siamo una decina di persone che stanno lavorando al libro e ogni capitolo che... ogni capitolo di cui parlavo prima ha il suo gruppo, quindi c'è, diciamo... 2-3 persone. Invece la parte di che hanno fondamentalmente aperto hard disk, cloud personali, il muro di Facebook, quello di Instagram, siamo riusciti a recuperare le password delle mail, organizzazione che usavamo per l'organizzazione, per le comunicazioni interne, siamo entrati dentro queste mail, siamo ritornati al 2012, al 2013, a vedere che cosa ci dicevamo. E invece il capitolo 24H, che di fatto è un capitolo proprio giorno e notte, quindi cioè di fatto Macao quando esisteva, io mi ricordo una giornata in cui mi ricordo ero lì una giornata, la mattina sono entrate 2 suore e la sera a mezzanotte c'era uno appeso al soffitto con dei ganci di ferro infilati nella pelle. Quindi 24H ce lo siamo divisi per mesi, nel senso che io ho fatto 12 mesi. Tutti gli altri hanno fatto più o meno 12 mesi a testa, poi a un certo punto ci siamo detti ma non riusciamo più a finire questo muro, non riusciamo più a finire di tirar su, di trovare materiale. C'è stata una persona che in particolare si è offerta per farsi un lavoro tipo robot, macchina, che a scavare nel muro di Facebook, e alla fine negli ultimi 15-20 giorni questa persona si è dedicata giorno e notte a chiudere questo archivio. Senti, volevo chiederti se avete pensato o comunque riscontrato alle difficoltà di portare all'interno di un testo, di un racconto, quella che è un'esperienza poi molto viva, esperienziale, pratica, quasi tangibile, come la vita di uno spazio aperto alla città, che quindi è contaminato e cosparso di esperienze appunto quotidiane, pratiche e di vita reale all'interno di un, come stavo dicendo, un racconto o una trascrizione letteraria. Se questo è un qualcosa che sia in fase di prescrittura, comunque in fase riflessiva, è emersa, o se comunque poi è emersa adesso facendolo già nella fase di selezionare il nome di un evento, mi sembra si stiano impegnando molto. C'è già la parola archivio per dire non va bene per definire il lavoro che stanno facendo, e mi sembra un'osservazione molto sì, cioè comunque solitamente c'è, è già difficile portare i propri pensieri su carta, portare uno spazio, quello che vive, che attraversa, che ha rappresentato per una città dentro un racconto. A più mani. Se questa discrepanza è qualcosa che emerge, che è tema di analisi tra voi internamente, insomma. Sì, diciamo che questo libro non vuole essere un saggio. Cioè, nel senso, non vuole essere la ricetta per occupare nel mondo, né rilanciare né rilanciare il movimento in Italia o sì, ma magari diciamo indirettamente far sviluppare delle riflessioni, però questo è un libro che racconta quello che è successo in 10 anni di storia del collettivo. E quindi almeno per io penso che sarebbe stato impossibile scriverlo senza queste 10 persone che ci stanno lavorando. E quindi in questo senso, se ho capito bene la domanda, è complesso perché è talmente tanta la roba che è successa. E poi probabilmente ognuna di queste 10 persone se l'è vissuta alla sua visione di com'è, esatto, di cosa è successo e come. Assolutamente, infatti è estremamente complesso perché quello che diciamo nel tempo è successo all'interno del palazzo, ma non solo, perché e poi si andava anche in giro, insomma, cioè mentre non so, 20 persone erano a Macao, altre 10 erano a Napoli, all'asilo, e soprattutto oltre che raccogliere, poi adesso iniziamo una parte ancora molto più complicata, molto più lunga e articolata, che è la parte di selezione. Quindi ci saranno queste dieci persone che, a partire da tutta una serie di dati raccolti dalle piattaforme, dagli archivi più o meno fisici, più o meno online, più o meno su mail, più o meno scritti a mano, si prenderanno poi la responsabilità di selezionare questo insieme di questi dati raccolti. E sicuramente qualcosa si perderà, tra l'altro. Quindi adesso iniziano 2 mesi abbastanza intensi da questo punto di vista. Però ecco, no, rispetto invece alla domanda, io credo che un libro del genere non avrebbe alcun tipo di senso farlo singolarmente. E in questo senso, se posso dire una cosa anche rispetto a quello, al progetto forse di Bea, che c'è stato poi un discorso su l'essere indipendente, cioè quanto questi progetti indipendenti hanno un valore, probabilmente noi non avremmo potuto scriverlo in 10 con questa intensità senza vincere questo bando del Ministero del Pesto Italian Council, che è un bando, quindi senza il bando per noi è fondamentale in questo senso, nel senso che comunque scrivere questo libro ci costa tanto, nel senso che ci costa, pensiamo di spendere dai 70 ai 90 mila euro più o meno. Qualcosa, sì, cioè nel senso che il Ministro della Cultura ci dà 70 mila euro. E il Ministro in persona? Sì, San Giuliano, no, non è più lui. Adesso però gli avrà dato lui. Sì, sì, l'ha deciso lui. E poi ha aspettato il prossimo. Quindi scrivere questo libro ci costerà tanto. E anche perché l'editore costa tanto, tra l'altro. Nero. Sì. No, comunque, molto bello secondo me iniziare con questo progetto di Exalge, librerie, cose, quindi qualcosa di divenire, e finire questa chiacchiera con un altro progetto che è in divenire. E speriamo che nel 2025... entrambe queste cose abbiano avuto il loro seguito. Chissà mai che non presenteremo qui tra le varie. So che avete già. A Milano non abbiamo ancora date. Mete importanti. A Milano non abbiamo ancora date. Però musei, fior fior di musei in giro per l'Europa. Sì, ma quelli erano obbligati, eh. Erano obbligati quelli. No, però mi piace questa cosa. Abbiamo attraversato un po' di progetti finiti. Poi nessuno lo è mai, perché sono sempre pietre miliari di percorsi che poi vanno ad allungarsi, però questo è un altro invece progetto che è in divenire. E io non lo so se tu, Gio, hai delle domande su questo. Ma sì, mi fa pensare un po' il fatto che molti dei progetti siano, che abbiamo visto questa sera e come ha detto Fede anche in questo momento, siano diciamo rappresentativi, quindi siano una descrizione, abbiano l'ambizione di descrivere una realtà che è stata o una tematica o un luogo o un problema comunicativo o relazionale, facendo un po' o un territorio o un problema o i problemi di un territorio, facendo un po' la carrellata di stasera. E mi piace perché comunque nel momento in cui tu decidi di descrivere qualcosa stai già scegliendo di raccontare qualcos'altro al di là della pura e semplice descrizione. E quindi questa è un po' poi la domanda che ricorre: qual è l'esigenza espressiva da parte del collettivo? Tu hai menzionato anche tu una cosa abbastanza romantica che secondo me è il ricordo, e il fatto della perdita del ricordo, del voler imprimere su carta sicuramente o su qualsiasi altro supporto, è una descrizione che rimane e che ti permette di ritornare al tuo ricordo e di renderlo partecipe anche per gli altri. Sì, posso fare solo una battuta proprio perché poi è tardissimo, ma cioè questo libro probabilmente sarà uno dei libri più antropici che io scritto, non ho mai scritto uno di libro, però diciamo che leggerò, ecco. Ma e quindi sicuramente c'è tutta una componente romantica, umana. È un forte valore sia per tutti i partecipanti, immagino, che scrivano. E forse nasce anche soprattutto da lì, come dicevi, sì, però è anche molto importante per la comunità. Assolutamente, la comunità, ma poi diciamo il progetto in sé, del libro... E di Macao, come dicevo, cioè del libro l'ho detto prima, ma il progetto di Macao si basava sulle persone e quindi di fatto non c'erano altre tecnologie se non quelle messe diciamo poi a sistema o comunque accumulate a partire dalle energie delle persone, quindi per forza deve esserci quella parte romantica, quella parte sociale, quella parte comunitaria, perché da lì che nascono, almeno questo libro è nato da un cerchio di persone che diceva facciamolo e poi qualcuno ha detto c'è un fondo, proviamo ad applicare e abbiamo vinto, ma poi alla fine il libro è partito da un cerchio di persone che ne parlavano e ha detto perché non farlo, e non da una che ha deciso, piuttosto che degli obblighi da rispettare, eccetera. Vuoi ridirmi un attimo, che ho una memoria brevissima, questa sorta di descrizione o titolo, se vuoi, se te la ricordi? Quella del messaggio? Sì, l'autocostruzione. Com'è che recita esattamente? Ah, il titolo è Processo di autocostruzione, di archiviare l'ingovernabile, del libro Archiviare l'ingovernabile del collettivo Macao. Quindi è una roba, diciamo, non, come si dice, non... mica pizze fichi. No, sì, ma no, ma non essenziale, come quello che dicevamo prima, dai, quegli artisti di... Concisa. Non concisa, sì. No, io volevo chiedervi invece, posso fare una domanda a voi due? Ma certamente. Tanto vi ringrazio della disponibilità. Molto volentieri sarebbe bello presentare quel libro e mi farò in modo di portare quel branco di... quei macachi anche in posti come questi, perché comunque... Io credo che in parte rappresentino anche un'evoluzione, di in parte un'evoluzione di quello che è stato sono stati, diciamo, l'aggregazione all'interno dei movimenti sociali che hanno preso luogo negli spazi a Milano, quindi ci proverò. E però invece volevo chiedervi, no, nel senso che poi ci sono anche tante altre cose che hanno dato vita a un posto come questi, che probabilmente hanno origini totalmente diverse, scopi, finalità. E anche un'involuzione. Sì, assolutamente. No, invece volevo sapere quali sono i programmi che avete col progetto, con i vostri progetti sui libri, quando esce il prossimo editoriale e se fate la pasta, perché ho visto che sull'ultimo ci sono piace, delle... Dovresti fare un laboratorio. Io potrei portare mia zia l'anno prossimo, Natale prossimo porto mia zia e facciamo gli anolini. Questa è la risposta alla terza domanda. Quindi terza domanda, sì, facciamo la pasta con la zia di Giovanni l'anno prossimo, gli anolini. Andata. No, il prossimo editoriale adesso nel 2025 riprenderemo probabilmente con degli appuntamenti fissi col laboratorio di scrittura collettiva. Fissi come erano? Fissi come tutto quello che succede qua. Lo riprendiamo, questa è la promessa. No, però è finito un ciclo, nel senso che Nodi di Nodi, che è stato il primo vero e proprio ciclo di risultato poi editoriale di quello che il laboratorio di scrittura produceva, ha avuto un suo percorso di 4 anni che è giunto al termine, e quindi questo prossimo anno sarà dedicato sicuramente ancora a un progetto di questo tipo, ma diverso. L'idea, credo che sia emersa un po' analizzando quello che abbiamo fatto fino ad ora, è di non eliminare completamente una parte artistico, fotografica, immaginifica, ma come magari mai potremmo? Che c'era già e come potremmo farlo, ma magari concentrarci un po' di più all'interno dell'editoriale anche su temi, discorsi un po' più attenti a... Sì, mi piace sempre ricordare che l'editoriale numero zero in verità doveva essere l'inizio di una serie numerata, e forse è stato sfortunato aver scelto il numero zero, che non è veramente un numero. Però, insomma, sì, e anzi, si erano già scelti diversi temi da affrontare nei numeri. No, io penso che Nodi di Nodi abbia rispecchiato e rispecchi quella che è stata una fase anche di Exalge. Quindi mettere dentro a un contenitore tante cose diverse, dando spazio a chiunque. Penso che Exalge stia cambiando in questo senso, e penso che l'editoria di Exalge cambierà nello stesso senso nei prossimi mesi. Bel modo di vederla. E invece sulla prima domanda che hai fatto, quindi sul progetto libreria, sicuramente oltre a quello che abbiamo detto all'inizio di conferenza, forse non era ancora arrivato, quindi sugli sviluppi poi fisici del progetto, nella pratica abbiamo in programma per il prossimo anno di fare un po' più presentazioni di libri che andranno ad arricchire il nostro catalogo. Quindi faremo conferenze, presentazioni tematiche su dei libri che poi saranno qui in conto vendita, disponibili per tutti. Andremo ad ampliare tutta la parte dei libri usati, seguendo però quei temi che ci siamo detti all'inizio, quindi non libri usati di qualsiasi tipo. Beh, anche magari le varie attività in esterna o per il futuro produrranno qualche materiale. Assolutamente. Penso al passeggio, deve assolutamente produrre dei rendiconti, delle uscite, dei diari di bordo. Stiamo andando off topic qua. Vabbè, no, sono prodotti editoriali. Cioè, il comitato attenzioni reportistica al passeggio. Esattamente. Che poi, esatto. Che poi domani, quindi vediamo se andiamo. Tutti invitati qua e presenti. L'hanno detto loro. Per fortuna che ci hanno fatto finire, quindi grazie a tutti. Grazie Giovanni, grazie Fede. Complimenti. Grazie a voi, grazie.